Pronti? Motore. Partito. Ciak. Azione. Non l'amore, non i soldi, non la fede, non la fame, non la giustizia. Datemi la verità. Audiogrammi di Laura Faggin e Paolo Corleoni. You are a cinema, a Hollywood treasure. I love you just the way you are. A cinema, a cinema. Stiamo per raccontarvi Into the Wild di Sean Penn. È la storia vera di un giovane proveniente dal West Virginia che subito dopo la laurea abbandona la famiglia e intraprende un lungo viaggio di 2 anni attraverso gli Stati Uniti fino a raggiungere le terre sconfinate dell'Alaska. Audiogrammi, in radio, come al cinema. 27 aprile 1992. Chris McCandless, che adotta il nome di Alex, scrive. Saluti da Fairbanks. Queste saranno le mie ultime righe, Wayne. Sono arrivato due giorni fa ed è stato molto difficile trovare passaggi nello Yukon, ma alla fine ce l'ho fatta lo stesso. Per favore, rimanda al mittente tutta la mia posta, perché potrebbe passare molto tempo prima che ritorni al sud. Se questa avventura si rivelasse fatale e non dovessi più ricevere mie notizie, sappi che sei un uomo veramente in gamba. Ora mi aspetta la foresta. Alex. Jim Gallien aveva lasciato Fairbanks da circa 6 chilometri quando sul ciglio della strada scorse un ragazzo col pollice alzato, tutto tremante nella neve di una grigia alba d'Alaska. Sembrava piuttosto giovane, 18-19 anni al massimo. Gallien accostò e invitò il ragazzo a salire. L'autostoppista buttò lo zaino sul pianale del van e si presentò come Alex. «Alex?» domandò Gallien cercando di capirne il cognome. «Solo Alex», rispose il ragazzo respingendo l'esca. Disse di avere 24 anni e di venire dal Sud Dakota. Spiegò che gli serviva un passaggio fino al confine del Denali National Park, dove intendeva addentrarsi nella foresta e vivere della natura per qualche mese. Hai lasciato la tua roba sul cruscotto? Tienila tu. Come vuoi. Grazie ancora. Aspetta un secondo. Tieni, prendi questi. Ti terranno i piedi asciutti. Se sopravvivi, fammi uno squillo. Il mio numero è dentro gli stivali. Grazie. Lo zaino del ragazzo sembrava pesare soltanto una decina di chili e Gallien, esperto cacciatore e boscaiolo, ne rimase colpito perché era troppo leggero per un soggiorno di parecchi mesi nell'entroterra, soprattutto a primavera appena iniziata. I fiumi sono gonfi e impetuosi, le zanzare ti mangiano vivo e in molti posti non trovi granché da cacciare. Insomma, vivere nella foresta non è certo come fare un picnic. C'è nessuno qui! Moving on a scene surreal. No, my heart. centinaio di chilometri a sud del confine con l'Oregon, nei pressi di Oric, una coppia di bighelloni a bordo di un vecchio furgone notò un giovane accovacciato nei cespugli lungo la carreggiata. Indossava un paio di bermuda e un cappello buffo, racconta Jan Barres. Chris aveva un libro sulle piante che usava per raccogliere le bacche. Mi fece pena e gli gridai: «Ehi tu, vuoi uno strappo?» Pensai che gli avremmo potuto dare qualcosa da mangiare o che so. Cominciamo a parlare e Alex, così disse di chiamarsi, si rivelò davvero simpatico. Aveva una gran fame, fame vera, ma era felice. Disse di essere sopravvissuto nutrendosi di piante commestibili che aveva identificato grazie al libro e sembrava andarne molto fiero. Viveva questa sua grande avventura attraverso il paese e ci raccontò di aver abbandonato l'auto e di aver bruciato tutti i soldi. Allora gli domandai: «Ma perché l'hai fatto?» E mi rispose che lui non aveva bisogno del denaro. Lo portammo fino a Oric Beach, dove eravamo accampati, e rimase con noi una settimana. Era proprio un bravo ragazzo, ci piaceva un sacco. Non ci saremmo mai aspettati di ricevere sue notizie, ma Alex ne fece una specie di questione di principio e nei 2 anni successivi ci mandò una cartolina quasi ogni mese. Non mi servono i soldi. Rendono le persone prudenti. Non è che puoi vivere solo di foglie e bacche. Non so se ho voglia di vivere con molto più di questo. Parafrasando quello che dice Thoreau: non l'amore, non i soldi, non la fede, non la fama, non la giustizia. Datemi la verità. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a big heart, son, beating on the big people in a big heart world. Vi stiamo raccontando Into the Wild di Sean Penn. Il mare non fa mai doni se non duri colpi. E qualche volta un'occasione di sentirsi forti. Ora, io non so molto del mare, ma so che qui è così. E quanto importi nella vita non già di essere forti, ma di sentirsi forti. Di essersi misurati almeno una volta. Di essersi trovati almeno una volta nella condizione umana più antica. Soli davanti alla pietra cieca e sorda, senza altri aiuti che le proprie mani e la propria testa. In data 11 gennaio 1991, la notazione nel diario comincia così: una data fatidica. Dopo essersi spostato poco più a sud, tirò la canoa sopra un banco di sabbia lontano dalla costa e si mise a osservare le grandi onde. Un'ora dopo, dal deserto, cominciarono a soffiare violente raffiche e la cospirazione di vento e acqua riuscì a trascinarlo in mare. Era un grande tumulto di creste spumeggianti e un'imbarcazione piccola come la sua rischiava di essere sommersa e capovolta. Con grande frustrazione, racconta il diario, Alex grida e a furia di picchiare la pagaia sulla canoa la rompe. Per fortuna ne ha una di scorta. Si dà una calmata perché se rompe anche la seconda può considerarsi morto. Alla fine, con uno sforzo tremendo, riesce a portarsi sulla spiaggia e crolla esausto sulla sabbia mentre il sole tramonta. L'incidente convinse Alexander ad abbandonare la canoa e a tornare a nord. Mistakes in the gold. puoi andare dappertutto. I soldi, il potere, sono illusioni. È già tutto quassù. Tu puoi starci qui. Io e te. In Alaska, dritto, sparato lassù nel mezzo, nel bel mezzo, cazzo, solo io e basta, cioè senza un cazzo di orologio, niente mappa, niente accetta, niente, capisci? Stare semplicemente là in mezzo, capisci? Le montagne, i fiumi, il cielo, la caccia, là in mezzo, capisci? Nella natura, sì. Nella natura. Solo natura. Sì. Un giovedì di metà gennaio, un anziano di nome Ron Franz si fermò a dargli un passaggio e nei mesi successivi i due trascorsero molto tempo insieme diventando grandi amici. All'inizio d'aprile, alla sua casella postale, Ron aprì una lettera proveniente dal Sud Dakota. Non mi fermerò ancora a lungo qui. Apprezzo sinceramente l'aiuto che mi hai dato e i momenti che abbiamo trascorso insieme. Spero che la nostra separazione non ti abbia depresso troppo. Potrebbe passare molto tempo prima di rivederci, ma ammesso che io superi l'affare Alaska tutto d'un pezzo, riceverai di sicuro mie notizie. Vorrei ripeterti di nuovo il consiglio che già ti diedi in passato, ovvero che secondo me dovresti apportare un radicale cambiamento al tuo stile di vita, cominciando con coraggio a fare cose che mai avresti pensato di fare o che mai hai usato. C'è tanta gente infelice che tuttavia non prende l'iniziativa di cambiare la propria situazione perché è condizionata dalla sicurezza, dal conformismo, dal tradizionalismo, tutte cose che sembrano assicurare la pace dello spirito, ma in realtà, per l'animo avventuroso di un uomo, non esiste nulla di più devastante di un futuro certo. Il vero nucleo dello spirito vitale di una persona è la passione per l'avventura. La gioia di vivere deriva dall'incontro con nuove esperienze e quindi non esiste gioia più grande dell'avere un orizzonte in continuo cambiamento, del trovarsi ogni giorno sotto un sole nuovo e diverso. Se vuoi avere di più dalla vita, Ron, devi liberarti dalla tua inclinazione alla sicurezza monotona e adottare uno stile più movimentato che al principio, sì, ti sembrerà folle, ma non appena ti ci sarai abituato, ne assaporerai in pieno il significato e l'incredibile bellezza. Per cui, Ron, in poche parole, vattene da Salton City e mettiti sulla strada. Ti garantisco che sarai felice di averlo fatto. Ti sbagli se credi che la gioia derivi soltanto o principalmente dalle relazioni umane. Il Signore l'ha disposta intorno a noi e in tutto ciò che possiamo sperimentare. Non dobbiamo che trovare il coraggio di rivoltarci contro lo stile di vita abituale e buttarci in un'esistenza non convenzionale. La mia opinione è che non hai bisogno né di me né di nessun altro per portare questa gioia nella tua vita. È semplicemente lì che ti aspetta, che aspetta di essere afferrata, e tutto quello che devi fare è tendere la mano per prenderla. Spero che la prossima volta che ti vedrò sarai un uomo con una sfilza di nuove esperienze e avventure alle spalle. Non esitare o indugiare in scuse. Prendi e vai. Sarai felice di averlo fatto. Riguardati, Ron. Alex. Cosa fai quando sei là? Quando sei nella natura? Che cosa fai? Cosa fai, vivi, amico? Sei lì, in quel momento, in quel posto speciale. Sì. Magari quando torno scrivo un libro sui miei viaggi, che ne so. Perché come no? Uscire da questa società malata. La società! La società! La società, amico! La società! La società! La società! La società! La società! Certo, la società! Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Walt e Billy non cercarono di impedire al figlio di partire, ma lo convinsero a portare con sé la carta di credito Texaco di Walt, in caso di emergenze, e gli strapparono la promessa di telefonare a casa ogni 3 giorni. Per tutto il tempo che durò quel viaggio, restammo col cuore in gola, confessa il padre, ma non c'era stato verso di dissuaderlo. Mio fratello era quel genere di persona che rimugina sui fatti, osserva Karin. Quando smisero di arrivare sue notizie, ci preoccupammo da maledetti. E penso che il sentimento dei miei genitori fosse un misto di dolore e rabbia. Personalmente non mi sentivo ferita per il fatto che non ci scrivesse. Sapevo che era felice e che stava facendo qualcosa che desiderava. Capivo quanto fosse importante per lui e sapeva bene che se mi avesse scritto o telefonato, mamma e papà avrebbero scoperto dove si trovava e sarebbero corsi a riprenderlo. È passato quasi un anno dalla scomparsa di Chris. La rabbia dei miei genitori, la loro disperazione, il loro senso di colpa stanno cedendo il passo al dolore. E il dolore sembra renderli più vicini. Persino i loro volti sono cambiati. Col passare dei mesi e poi degli anni, senza ricevere una parola da Chris, l'angoscia crebbe. Ogni volta che in macchina vedevamo un autostoppista che ricordava in qualche modo nostro figlio, facevamo inversione e tornavamo indietro. Fu un periodo terribile. La notte era la parte peggiore, specialmente se faceva freddo o pioveva. Ti domandavi, dove sarà? Starà al caldo? Si sarà fatto male? È solo? Starà bene? Nel luglio 1992, 2 anni dopo la partenza di Chris da Atlanta, Billy saltò sul letto a Chesapeake Beach, nel mezzo della notte, e svegliò Walt. Ero certa di aver sentito la voce di mio figlio che mi chiamava. Spiega. Non so come potrò superare questa cosa. Non stavo sognando, non me lo sono immaginato. Era proprio la sua voce che mi pregava. Mamma, aiutami! Ma non potevo aiutarlo perché non sapevo dove fosse. E non mi disse nient'altro. Solo, mamma, aiutami. Lei vede Chris, vede suo figlio, in ogni ragazzo con lo zaino in spalla che le capita di incrociare. E io temo per la madre che è in lei. Vi stiamo raccontando Into the Wild di Sean Penn. È la storia vera di un giovane proveniente dal West Virginia che subito dopo la laurea abbandona la famiglia e intraprende un lungo viaggio di 2 anni attraverso gli Stati Uniti fino a raggiungere le terre sconfinate dell'Alaska. Me to feel I'm falling, I am falling, the lights go out. Let me feel I'm falling, I am falling safely to the Misi il piede su un ponte di neve sopra una spaccatura di cui non vedevo il fondo. E poco più tardi mi ritrovai nella neve fino al bacino in un altro ponte. Ma fortunatamente le aste mi sorressero ed evitai di precipitare per decine e decine di metri. Dopo essermi divincolato, rimasi qualche tempo piegato in due dai conati di vomito al pensiero di come sarebbe stato giacere in un mucchio di neve in fondo ad un crepaccio ed aspettare la morte senza che nessuno sapesse come e quando l'avessi incontrata. Quando mi misi a dormire la sera del 10 maggio, nevicava ancora e il vento soffiava forte. Qualche ora dopo udii un debole momentaneo lamento, appena più percettibile del ronzio di una zanzara. Spalancai la porta della tenda. Gran parte delle nuvole era stata spazzata via, ma all'orizzonte non si vedeva nessun aereo. Il lamento riprese, stavolta con maggiore insistenza, e finalmente lo vidi. Un minuscolo puntino rosso e bianco nel cielo, che da ovest ronzava nella mia direzione. Nella piatta luce serale non potei vedere la mia tenda, e lo sbracciarmi e urlare non valsero a nulla. Da quell'altitudine era impossibile distinguermi da un qualsiasi altro ammasso di pietre. Freneticamente pensai di legare il sacco a pelo all'estremità di una delle aste metalliche e per quanto potesse servire cominciai ad agitarlo nell'aria. Di colpo l'aereo si inclinò in virata e puntò verso di me. In rapida successione sorvolò 3 volte la tenda a bassa quota e lanciò 2 scatole ad ogni passaggio. poi scomparve dietro una cresta e fui nuovamente solo. Quando il silenzio riprese possesso del ghiacciaio, mi sentii abbandonato, vulnerabile, smarrito e mi accorsi di singhiozzare. Imbarazzato, interruppi il piagnisteo mettendomi a gridare oscenità fino a quando la voce non divenne roca. Dove cazzo sono finiti gli animali? Ha fame! Ha fame, cazzo! Ha fame! Dal diario apprendiamo che il 29 aprile McCandless scivolò sul ghiaccio, probabilmente nell'attraversare una serie di laghetti di castoro in disgelo, appena oltre la riva occidentale del Teclanica. Il giorno seguente, quando il sentiero per la prima volta si arrampicava su una cresta, Chris ebbe modo di ammirare gli alti versanti innevati del monte McKinley. E quello dopo ancora, il primo maggio, a una trentina di chilometri circa dal punto in cui l'aveva lasciato Gallien, si imbatté nel vecchio autobus accanto al fiume Sashana. Quel rifugio improvvisato era fornito di cuccetta e fornello e precedenti visitatori avevano lasciato una scorta di fiammiferi, insetticida e altri generi essenziali. «Giornata del bus magico», scrisse McCandless sul diario e decise di godersi un po' le spartane comodità del veicolo. All'interno, su un malconcio pannello di compensato che ricopre un finestrino rotto, scarabocchiò un'esultante dichiarazione di indipendenza. «Così ora, dopo 2 anni di cammino, arriva l'ultima e più grande avventura. L'apogeo della battaglia per uccidere il falso essere interiore suggella vittoriosamente la rivoluzione spirituale. Per non essere più avvelenato dalla civiltà, lui fugge. Cammina solo sulla terra per perdersi. Nella natura selvaggia. Alexander Supertramp. Maggio 1992. Nell'ultima settimana di maggio, dopo aver trasferito i pochi averi all'interno dell'autobus, McCandless si servì di una striscia di corteccia di betulla simile a pergamena per stilare un elenco di mansioni domestiche. Raccogliere e immagazzinare ghiaccio dal fiume per conservare la carne, coprire i vetri mancanti dei finestrini con plastica, fare scorta di legna da ardere e ripulire il fornello dai cumuli di cenere vecchia. Sotto il titolo «Lungo termine» annotò una serie di propositi più ambiziosi. Stendere una mappa della zona, improvvisare una vasca da bagno, raccogliere pelli e piume da cucire come abiti, costruire un ponte sul vicino torrente, riparare gavetta e arnesi vari, delineare una linea di percorsi di caccia. Il 5 giugno catturò un'oca del Canada grande come un tacchino di Natale e il 9 giugno superò se stesso abbattendo un alce. I cacciatori dell'Alaska sanno che il metodo migliore per conservare la carne nella foresta consiste nel tagliarla a strisce sottili ed essiccarla all'aria sopra una grata improvvisata. Ma McCandless, nella sua ingenuità, si fidò del consiglio dei cacciatori che aveva consultato nel Sud Dakota, i quali gli avevano suggerito di affumicarla, compito non molto semplice considerate le circostanze. «Macellazione estremamente difficile», annotò sul diario il 10 giugno. «Sciami di mosche e moscerini, rimossi intestini, fegato, reni, un polmone, bistecche, quarto posteriore e zampa colare». 11 giugno. «Rimosso cuore e secondo polmone, 2 zampe anteriori e testa, il resto a colare. Riposto vicino al buco, cerco di proteggere affumicando». 12 giugno. «Rimossa mezza cassa toracica e bistecche. Posso lavorare solo di notte. Continuo ad affumicare». 13 giugno. «Il resto di cassa toracica, spalla e collo alla buca. Comincio ad affumicare». 14 giugno. «Già i vermi. L'affumicazione risulta inefficace. Non so, sembra un disastro. Vorrei non avere mai ammazzato l'alce, una delle più grandi tragedie della mia vita». A quel punto gettò la spugna e abbandonò la carcassa ai lupi. Pur giudicandosi molto severamente per aver sprecato una vita, il giorno seguente McCandless sembrò riacquistare una certa prospettiva, scrivendo sul diario: «D'ora in poi imparerò ad accettare i miei errori, per quanto gravi possano essere». Vi stiamo raccontando Into the Wild di Sean Penn. In data 30 luglio, due giorni dopo aver finito il libro Il Dottor Givago, Chris scrisse sul diario parole allarmanti. Estremamente debole. Colpa dei semi di Pat. Problemi anche solo per alzarmi. Sto morendo di fame. Grande pericolo. Il 6, 7 e 8 agosto non annotò nulla. Il 9 scrisse di aver sparato a un orso senza però colpirlo. Il 10 di aver avvistato un caribù, ma di non essere riuscito a sparare. E finalmente di aver ucciso 5 scoiattoli. Se però l'organismo aveva già accumulato un quantitativo sufficiente di sua insonina, il piccolo bottino di caccia sarà stato di ben poco nutrimento. L'11 agosto colpì e mangiò una pernice bianca. Il 12 si trascinò fuori dall'autobus in cerca di bacche, non prima però di aver lasciato una richiesta d'aiuto nella remota ipotesi che qualcuno si trovasse a passare di lì in sua assenza. Il messaggio, scritto in meticoloso stampatello maiuscolo su una pagina strappata, dice: SOS, ho bisogno del vostro aiuto. Sono malato, prossimo alla morte e troppo debole per andarmene a piedi. Sono solo, non è uno scherzo. In nome di Dio, vi prego, rimanete per salvarmi. Sono nei dintorni a raccogliere bacche e tornerò stasera. Grazie. Questo appunto nulla suggerisce che McCandless si trovasse in difficoltà. Benché fosse affamato e la povera dieta che era costretto a osservare avesse ridotto il corpo a un tetro ammasso di pelle e ossa, complessivamente sembrava godere di buona salute. Invece, il 30 luglio le sue condizioni fisiche precipitarono all'improvviso verso il disastro e già il 19 agosto Chris McCandless era morto. Infatti i semi di patata diventano moderatamente tossici quando cominciano a germogliare. Contengono la solanina, un veleno presente nella famiglia delle solanacee, che se ingerito per un breve periodo produce vomito, diarrea, cefalea e letargia, ma sul lungo periodo finisce per pregiudicare il ritmo cardiaco e la pressione sanguigna. Se McCandless avesse avuto una carta topografica della US Geological Survey, si sarebbe accorto che lungo il Sashana, a una decina di chilometri a sud dell'autobus, esisteva un capanno del Park Service. Nelle sue condizioni fisiche sarebbe ancora riuscito a coprire la distanza. Lì, appena dopo il confine del Denali National Park, avrebbe potuto trovare provviste d'emergenza, un letto e un piccolo pronto soccorso a disposizione dei ranger durante i pattugliamenti invernali. In altre parole, la salvezza di McCandless si trovava a sole 3 ore di cammino lungo il fiume. Una delle ultime cose che Chris McCandless fece in vita fu quella di scattarsi una foto accanto all'autobus, sotto la volta celeste del cielo d'Alaska. Con una mano rivolge il biglietto d'addio all'obiettivo e con l'altra porge un saluto sereno e coraggioso al mondo. Se in quelle ultime difficili ore il ragazzo si sia commiserato, perché era giovane, perché era solo, perché il corpo l'aveva tradito riducendolo in quello stato, non traspare dall'immagine. Chris sorride e il suo sguardo è inequivocabile. McCandless era in pace, beato come un monaco che va dal Signore. Testo tratto da Nelle terre estreme, un viaggio nella natura alla ricerca della libertà assoluta, di John Krakauer, edizioni Corbaccio. Questa puntata è dedicata a Nino Gorio, cronista, viaggiatore e naturalista. Audiogrammi è un programma ideato e condotto da Laura Faggin e Paolo Corleoni. Voce Laura Faggin. I love you, just the way.